spiaggia. Diminuiscono gli occupati in Italia per la prima volta da 14 anni, persi 200.000 posti nel primo trimestre, il tasso di disoccupazione sale al 7,9%. Il dopo elezioni in Iran, l'Ayatollah Khamenei al fianco di Ahmadinejad, non c'è stata manipolazione del voto, dice, il popolo ha scelto chi voleva, ora c'è bisogno di calma. Il Bari Gate, si indaga su telefonate ed sms, Bonaiuti replica alle indiscrezioni di stampa, Berlusconi non ha mai detto risponderò colpo su colpo. Domenica e lunedì alle urne per i ballottaggi, ma anche per il referendum in XL, i dettagli della consultazione, le ragioni della sì e quelle dell'astensione. L'ETA torna a colpire, assassinato un poliziotto antiterrorismo vicino a Bilbao. Sequestrate nel nord Italia 4,5 tonnellate di mozzarelle gonfiate, erano prodotte con materie prime non consentite o scadute. Nel fine settimana riapre una parte del centro storico dell'Aquila. A Milano il concerto delle donne per raccogliere fondi. Formula 1, resa dei conti fra la FIA e le scuderie, si va verso un mondiale parallelo, ma con le scuderie e i piloti più famosi. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con dei dati economici negativi. Quelli che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat riguardano l'occupazione. Per la prima volta in 14 anni gli occupati in Italia sono diminuiti. Nel primo trimestre, infatti, ci sono stati circa 200.000 occupati in meno rispetto allo stesso periodo del 2008. Tutti i dettagli in diretta da Roma dalla nostra Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori. Come avete detto, calano gli occupati nel primo trimestre del 2009 ed è la prima volta in 14 anni. A dirlo è l'Istituto di Statistica nella sua rilevazione mensile sulle forze di lavoro. In cifre l'Istituto parla di un calo dell'occupazione dello 0,9%. A perdere il lavoro nei primi tre mesi dell'anno sono stati 426.000 italiani. Ne hanno però trovato uno nuovo, 222.000 stranieri, il che vuol dire che il saldo è pari a 204.000 unità di lavoro in meno. Cala il numero degli occupati a tempo determinato, sono 154.000 in meno. I collaboratori sono 107.000 in meno, mentre i lavoratori autonomi calano di 154.000 unità. Il Mezzogiorno è il più colpito dalla flessione, con 114.000 posti di lavoro in meno, mentre il Nord e il Centro perdono rispettivamente 46.000 e 44.000 occupati. E questo calo riguarda soprattutto la componente maschile. Hanno perso il posto 162.000 uomini a fronte di 42.000 donne. Veniamo al tasso di disoccupazione. Il tasso di disoccupazione è salito al 7,9% dal 7,1% del primo trimestre del 2008. Si tratta del tasso più alto registrato dal 2005 e significa in sostanza che 221.000 persone cercano un lavoro in più rispetto al periodo precedente. Al nord passa dal 4 al 5,1%, al centro arriva al 7,6% dal 6,1% di un anno prima. Al sud invece il tasso di disoccupazione non aumenta di molto rispetto ai primi quattro mesi del 2008, si parla di uno 0,2% in più. Tuttavia il problema nel Mezzogiorno è che diminuisce in modo consistente la forza lavoro, cioè le persone in cerca di un'occupazione. È una specie di effetto scoraggiamento sulla possibilità di trovare un'occupazione, che produce quindi l'espulsione di migliaia di persone dal mercato del lavoro. E da Roma è tutto, a voi. Grazie Paola Cavadi. Noi ora invece veniamo al cosiddetto Bari Gate. Sì, l'inchiesta della procura barese che vuole far luce su un giro di mazzette, ma che sta anche indagando su diversi episodi in cui alcune ragazze sarebbero state pagate per partecipare a feste nelle abitazioni di Silvio Berlusconi a Roma e in Sardegna. E allora facciamo il punto su questa inchiesta collegandoci con Bari. Giovanni Longo. Sì, buongiorno. Stamattina era atteso in procura, ma fino a questo momento non si è visto. Formalmente in ferie, seccato per la fuga di notizie, il PM Giuseppe Scelsi sta lavorando lontano dagli uffici giudiziari, oltre che al presunto giro di mazzette, anche al giro di escort che sarebbe partito da Bari per raggiungere addirittura le residenze del Premier. Nella segreteria del PM l'avvocato Nicola Quaranta, difensore dell'imprenditore Giampaolo Tarantini, annuncia che depositerà a breve un esposto proprio sulla fuga di notizie. Nessuna polemica polemica di C40. La finalità è tutelare la genuinità delle indagini. I finanzieri intanto stanno effettuando riscontri a quanto riferito nei giorni scorsi da 4 donne, compresa la 42enne Patrizia Daddario, che sostengono di aver partecipato a pagamento a feste esclusive nelle residenze private di Berlusconi a Roma e in Sardegna. Nel mirino SMS e telefonate, oltre che le verifiche delle intercettazioni ambientali e di alcuni video e audiocassette depositate in procura dalla stessa Patrizia. Nei prossimi giorni potrebbero essere ascoltate altre ragazze ancora. Una persona vicina a Tarantini intanto sarebbe indagata per spaccio di cocaina, ma anche in questo caso, così come nella presunta vicenda dell'escort, il premier sarebbe del tutto estraneo. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie anche a Giovanni Longo per questi aggiornamenti. Naturalmente l'inchiesta di Bari riecheggia nei palazzi della politica e scatena polemiche. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. In attesa che Berlusconi intervenga in prima persona su questa vicenda, oggi è stato il suo portavoce a farlo. Buonaiuti ha smentito che il premier abbia pronunciato frasi che oggi gli vengono attribuite da alcuni giornali, frasi come temo di essere spiato oppure se vogliono la guerra la avranno. Berlusconi oggi si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo. Prima della riunione del Consiglio europeo, una telecamera di Sky ha catturato una sua conversazione telefonica nella quale, parlando molto probabilmente con Niccolò Ghedini, che è il suo avvocato, il Presidente del Consiglio parla proprio di questi titoli di giornale. Ma sentiamo le sue parole. Ma Niccolò, ma ti sembra possibile che tu possa pensare una cosa del genere di me? Mi offendo io a questo punto. Ma adesso facciamo un comunicato. Chiamo subito Paolo Bonaiuti e gli dico di fare un comunicato, perché qua ci sono anche cose che sono state in altri titoli che non ho assolutamente detto. Non ho mai parlato di un complotto oscuro, non ho mai detto che temo di essere spiato, non ho mai detto che il mio avvocato è uscito pazzo, non ho mai detto l'altra cosa che adesso appena visto che mi ha fatto incazzare, risponderò con un suo volto. Veramente, una cosa incredibile. Questi sono, lo vedi che tu come sono, no? Sono dei disgraziati. Intervengo adesso, me l'hanno detto in questo momento, intervengo in 30 secondi. Ciao, intervengo subito. Ciao. Ecco, questa è la conversazione del premier catturata dalle telecamere di Sky e a Berlusconi, che nei giorni scorsi, lo ricordiamo più volte, ha parlato di un complotto ai suoi danni. L'opposizione chiede invece di fare i nomi di chi starebbe tramando contro di lui, preoccupata anche perché Berlusconi, diciamo, in qualche modo potrebbe essere ricattato da qualcuno, cosa che se fosse vera potrebbe naturalmente costituire anche un problema di carattere istituzionale. A chiedere a Berlusconi di fare chiarezza oggi infine è anche Avvenire, in un editoriale, il quotidiano della Conferenza Episcopale, quindi dei vescovi italiani. Si chiede se il Presidente del Consiglio abbia finora scelto la linea difensiva migliore e lo invita a non illudersi che l'efficienza dell'azione di governo possa far premio sempre e comunque sui comportamenti privati. Queste le preoccupazioni dei vescovi, vi restituisco la linea. Grazie Andrea Viali. Del resto il cosiddetto Barigate sta forse avendo anche ripercussioni a livello internazionale, perché nel Partito Popolare Europeo sembra esserci una certa resistenza ad indicare Mario Mauro, esponente del PDL, come presidente per il Parlamento di Strasburgo. Ieri il presidente uscente Pöttering ha detto che le vicende che coinvolgono Berlusconi non avranno effetto sulla candidatura di Mauro. Ma è veramente così? Lo chiediamo ad Enrico Brivio in diretta da Bruxelles, dove oggi, come ci diceva del resto anche Andrea Viali, c'è il Consiglio europeo con i capi di Stato e di Governo dell'Unione, compreso quindi anche Berlusconi. Enrico. Ma certamente l'alone di polemiche che arriva dall'Italia non ha aiutato la candidatura di Mauro, però va rilevato che ci sono anche altri fattori che hanno inciso a favore del polacco Buzek, in particolare il fatto che la Germania, i popolari tedeschi avessero in qualche modo già promesso alla Polonia una candidatura di Buzek alla guida del Parlamento, per cui in fondo la candidatura di Mauro era basata sulla scommessa che la delegazione italiana avesse un grandissimo successo alle elezioni e grazie all'arrivo anche di AN nel Partito della Libertà e potesse arrivare alla stessa, se non a essere la prima all'interno del Partito Popolare, ma a essere molto vicino a quella tedesca. Invece è rimasto un certo divario, quindi i tedeschi sono rimasti la delegazione più importante, e con tutti i paesi dell'est a favore di Buzek, diciamo che a questo punto la candidatura di Mauro farà molta fatica, e quindi questo quadro politico che si è aggiunto poi alla luna delle polemiche su Berlusconi ha un po' penalizzato la candidatura Mauro. Grazie dunque Enrico Brivio per questi aggiornamenti, vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. Adesso passiamo a parlare di mozzarelle adulterate. Eh sì, perché 4 tonnellate appunto di mozzarelle adulterate distribuite in tutta Italia sono state sequestrate dai nuclei antisofisticazione dei carabinieri, che hanno immediatamente bloccato la produzione in una fabbrica di Crema. Ci ha spiegato tutto Simone, tu hai sentito il colonnello Antonio Amoroso, che è vicecomandante dei NAS. I carabinieri del NAS in Crema, del NAS di Cremona, hanno individuato un caseificio che i cui titolari si accingevano a riciclare dei residui di formaggio e comunque di prodotti caseari prossimi alla scadenza o già scaduti, per essere, come dire, reintrodotti nel circuito commerciale sotto forma di mozzarelle, e per di più a fronte di un basso contenuto di latte il prodotto veniva integrato con caseina e con grassi per conferire un'ulteriore consistenza proteica al prodotto stesso. Dove finivano queste finte mozzarelle, colonnello? Ma guardi, delle 4 tonnellate e mezzo sequestrate, 3 erano ancora giacenti presso l'industria. Una tonnellata e mezza l'abbiamo bloccata nei esercizi pubblici e ristoranti, soprattutto ricadenti soprattutto nel nord Italia. Questi prodotti non finivano comunque sugli scaffali dei supermercati o nei negozi, erano diretti ad esercizi pubblici come ristoranti o bar? No, anche a rivendite come negozi. Ce ne sono ancora in giro? Sospettate che ce ne siano ancora in giro? No, non ce ne sono, siamo riusciti a effettuare un intervento tempestivo, a prevenire che sulle tavole degli italiani arrivassero questi prodotti sofisticati. Svolta storica nel mondo della Formula 1, le scuderie principali, fra cui la Ferrari, non hanno trovato l'accordo con la Federazione Internazionale. Si va verso la creazione, già dalla prossima stagione, di un mondiale alternativo. L'ultimo conto alla rovescia è iniziato. Se entro stasera non rientrerà la rottura tra la FIA, la Federazione Internazionale, e la FOTA, l'associazione dei team più importanti, al prossimo mondiale di Formula 1 non parteciperanno 8 tra le scuderie più famose. Dalla Ferrari alla McLaren, dalla Toyota alla BMW, dalla Renault alla Brown GP, i dominatori di questa stagione. Nascerà invece un campionato alternativo, organizzato dalle stesse case costruttrici. La rottura è maturata sul cosiddetto budget cap, il tetto alle spese che il presidente della FIA Max Mosley ha voluto introdurre per attrarre nuove scuderie e rendere il mondiale più equilibrato, e sul quale i team sono sempre stati contrari. Ieri sera la rottura delle trattative, i costruttori hanno rifiutato l'ultimo rilancio di Mosley, l'aumento del limite da 45 a 100 milioni a stagione per scuderia. Le squadre accusano la FIA di aver ignorato le loro richieste, la federazione incolpa i team per il mancato accordo, ma secondo Mario Poltronieri è ancora possibile una intesa in extremis. In linea teorica i team possono organizzare un campionato alternativo utilizzando l'attuale materiale sviluppato nell'ambito del loro budget, che sicuramente quindi sarebbe superiore ai 100 milioni indicati da Mosley. Io penso che si dovrà comunque trovare un accordo. Certo, questo braccio di ferro porta lontano, perché potrebbe, diciamo, modificare sostanzialmente i rapporti nelle stagioni venture. Domani la federazione renderà noti i nomi dei partecipanti al prossimo mondiale. Da oggi intanto si corre a Silverstone, Gran Bretagna, l'ottavo Gran Premio di una stagione che non è neanche al giro di boa e sembra già finita. Ma interessa ancora qualcuno? Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13, 17 minuti, 17 secondi. Nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato dei dati sull'occupazione forniti questa mattina dall'Istat. Diminuiscono gli occupati la prima volta da 14 anni e si sono persi 200.000 posti di lavoro nel primo trimestre. Abbiamo parlato del cosiddetto Barrigate, si indaga su telefonate ed SMS, e Berlusconi precisa di non aver mai detto che risponderà colpo su colpo, come invece riportato da alcune indiscrezioni sui giornali. E poi abbiamo parlato di un sequestro di 4 tonnellate e mezzo di mozzarelle nel nord Italia, erano prodotte con materie prime non consentite o scadute. Abbiamo parlato anche di Formula 1, adesso andiamo all'estero. Precisamente in Iran, a una settimana dalle elezioni, oggi nel giorno della preghiera del venerdì ha parlato l'Ayatollah Khamenei. Cristina Balotelli cosa ha detto? Quella che sentite è la voce della guida suprema Ayatollah Khamenei, che ha negato oggi che ci siano stati brogli nelle elezioni ed ha esortato a mettere fine alle manifestazioni nelle strade. Se pensano che con questi raduni possano imporre quello che vogliono alle autorità dello Stato, si sbagliano, ha ammonito nel corso del suo sermone. Entrando nel merito del contestato risultato elettorale, Khamenei ha detto che non è avvenuta nessuna manipolazione del voto. Ci sono stati 11 milioni di voti di differenza tra Ahmadinejad e Mousavi. Come può essere stata una manipolazione? Ha chiesto Khamenei. E poi ha detto: il popolo ha scelto colui che voleva. Il lungo sermone è durato più di un'ora e 40 minuti. È stato ripreso unicamente dalla TV di Stato iraniana perché, come sapete, non è più permesso ai giornalisti stranieri di seguire la cronaca in Iran. A loro ha anche lanciato un messaggio. La stampa estera ha diffuso notizie false ed ha aggiunto di non avere mai preso posizione per nessuno dei candidati, anche se ha esplicitamente sostenuto ancora una volta il presidente eletto Ahmadinejad. Inoltre ha sottolineato che l'Iran ha bisogno di calma, è difficile trovare la via giusta quando si è agitati, ha detto. In prima fila c'era il presidente Ahmadinejad, non era presente invece Mousavi e nemmeno Rafsanjani. Non si ha notizia di scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. C'è da dire che le milizie islamiche fedeli al presidente erano presenti in massa all'università di Teheran e di certo l'avvertimento della guida suprema a chi intende far sentire la sua protesta non fa presagire nulla di buono. A voi la linea. Grazie Cristina Balotelli. Passiamo invece ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, appena tornato da Teheran, perché del resto come gli altri giornalisti non è stato rinnovato il visto. Alberto, allora, come interpretare queste parole di Khamenei? Non ci sarà ovviamente nessun riconteggio dei voti, mi sembra di capire, la partita è chiusa. Beh, la partita era già chiusa da parte di Khamenei, solo che non l'aveva reso esplicito. Dopo c'erano stati già nei giorni scorsi, come avete visto tutti, centinaia di arresti, c'erano stati i raid notturni dei Basigi, c'erano stati gli scontri di Piazza Zadì con 7-8 morti e poi in altre zone della città e del paese. Insomma, non era ancora definito in modo ufficiale, ma è chiaro che da oggi parte la fase 2 della repressione da parte del regime iraniano. Bisognerà vedere quale sarà l'intensità di questa repressione e soprattutto chi colpirà e dove colpirà. Se l'opposizione continuerà a dimostrare, e sembra probabile che voglia farlo perché Mousavi e gli altri domani hanno convocato una grande manifestazione, è possibile che scendano in campo le milizie dei Basigi e Pasdaran per cercare anche forse addirittura lo scontro fisico. Oggi lo scontro è stato evitato perché la piazza intorno all'università dove si tengono i sermoni del lunedì è stata invasa da una folla oceanica. Era questo anche che voleva mostrare il potere iraniano oggi, sanzionando da parte di Khamenei, cioè della guida suprema, che Ahmadinejad è intoccabile. E quindi la prospettiva futura, non a brevissimo termine Alberto, ma a termine un pochino più lungo, secondo te qual è? Io penso che a questo punto, dicevo appunto, parte la fase 2 della repressione. Dove verrà applicata? Ovviamente alle dimostrazioni di piazza, bisognerà vedere con quale intensità, dicevo, e poi anche alla dirigenza del movimento e a coloro che lo sostengono. Oggi Khamenei, per esempio, ha difeso Rafsanjani, è uno di noi, come tutti gli altri che sono lì a dirigere il movimento dell'Onda Verde. Non è giusto accusarlo di corruzione, ma questa difesa di Rafsanjani appare piuttosto perfida, perché probabilmente già, anzi, sono stati applicati dei provvedimenti restrittivi per i figli, e questo è già un messaggio che arriva. Cioè ci sarà, come dire, anche a livello dirigenziale e dei riformisti saranno colpiti sicuramente. A medio termine io penso che ci saranno dei problemi perché se gli iraniani continuano a manifestare e non potranno più andare in piazza, o comunque ci sarà del sangue, altro sangue versato, si approfondirà ancora di più la divisione all'interno del paese. Grazie Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Noi restiamo all'estero, in un'altra zona calda. Nei Paesi Baschi, in Spagna, quindi molto più vicino a noi, dove a quanto pare l'ETA è tornata a colpire. Era impegnato nella lotta antiterrorismo da più di 20 anni e i terroristi lo hanno ucciso. Hanno piazzato una bomba Lapa sotto la sua auto, un ordigno che si attacca come una ventosa sotto i veicoli e che può essere comandato anche a distanza. E lo hanno fatto esplodere alle 9 di questa mattina vicino a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli. L'ispettore capo di polizia, Eduardo Antonio Garcia, 49 anni, è la prima vittima dell'anno dell'ETA, il gruppo armato che dalla fine della Grande Guerra si batte per l'indipendenza del popolo basco e per la creazione di uno Stato sociale. E si tratta anche del primo attentato dal cambio di governo nella regione. Il socialista Paci López, eletto appena il 6 maggio scorso, era stato più volte minacciato dall'associazione terrorista per aver escluso il partito nazionalista dal governo locale. Un evento politico che non si verificava da più di 30 anni e che potrebbe aver fatto riprendere in mano le armi ai separatisti. L'ultimo attentato mortale dell'ETA, infatti, si era verificato il 3 dicembre scorso, quando era stato ucciso a colpi di pistola un imprenditore di 71 anni. La cui impresa era impegnata nella realizzazione dell'alta velocità, un progetto contestato dall'organizzazione terroristica. Micaela Nasca, GR24, Il Sole 24 Ore. Il 58% dei cattolici praticanti si confessa una volta all'anno e il Papa ha rivolto un appello ai sacerdoti di tutto il mondo chiamati a ridare senso a questo sacramento. È il sacramento più difficile, quello da tempo in crisi, ma il Papa chiede ai preti di non rassegnarsi a vedere deserti confessionali, né limitarsi a constatare la disaffezione dei fedeli. Benedetto XVI lo raccomanda nella lettera ai sacerdoti del mondo in occasione dell'anno a loro dedicato che si inaugura oggi. Il Papa chiede ai sacerdoti di mettere al centro delle loro preoccupazioni pastorali il sacramento della riconciliazione, deplorando ancora una volta le infedeltà dei preti, motivo di sofferenza per la Chiesa. Padre Enzo Redolfi. Penso che la causa principale sia una mancanza sempre più di fede. In un mondo sempre più lontano da Dio vanno molto meno anche la Santa Messa, quindi la confessione ancora di più perché è un sacramento ancora più delicato. Il 58% dei cattolici praticanti si confessa una sola volta all'anno, il 30% non lo fa per niente. A lanciare l'allarme qualche tempo fa è stato il reggente della penitenzieria, il più antico dicastero vaticano, Monsignor Gianfranco Girotti, che pone l'accento su nuove forme di peccato. Accanto alla classica lista, diciamo, dei peccati, non uccidere, non rubare, eccetera, ci sono altre forme di peccati. Peccati che sono legati un po' alla droga, alla bioetica, alla cattiva amministrazione, ricchezza eccessiva, anche problemi legati anche alla stessa ecologia. Bruciare, per esempio, un bosco è un peccato. Questi, diciamo così, nuovi peccati li confessano? Alcuni li confessano, poi dipende anche dal confessore, vero, che può stimolare una certa riflessione. Katia Caramelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Oh, Alessandra, a questo punto speriamo di non essere eccessivamente irriverenti. Sì, perché diciamo che abbiamo parlato di chi aspira al regno dei cieli, noi scendiamo un po' più giù, insomma, e parliamo di chi vuole guadagnarsi invece un pezzo di luna. Da domani è possibile farlo, ascoltando, tra le altre cose, la nostra trasmissione Moebius in onda dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica in replica alle 23. La voce di Moebius, Federico Pedrocchi in linea con noi. Allora Federico, come facciamo a guadagnarci un pezzo di luna? Intanto anche voi due potreste incominciare a inventarvi una frase. Il concorso è sostanzialmente questo, è abbastanza geniale, è stato indetto dalla rivista New Scientist inglese, una delle migliori riviste di scienza al mondo, che ci propone questa sfida. Allora, se voi foste stati al posto di Neil Armstrong, invece che dire un piccolo passo per me è un grande passo per l'umanità, cosa diavolo avreste detto? Questa è bella, non lo so. Nemmeno io. Ci siamo forse. Ci siamo. Infatti, quanta polvere! Ecco, casualmente avete detto due cose che sono tra le prime che sono arrivate alla rivista inglese. Siamo banali, insomma. Perché quando ha atterrato il LEM, ha allunato il LEM, ha sollevato un sacco di sabbia, allora una prima frase che è stata suggerita è: accidenti, ho dimenticato Secchiello e Spalletti. Senti Federico, ma cosa si vince dunque? Allora, si vince un pezzetto di luna, naturalmente non è uno di quei pezzetti estraibili dalle rocce portate giù dalle missioni Apollo, quelle sono già state allocate in centri di ricerca da tempo in qualche museo, è un pezzetto di luna però di un meteorite lunare caduto sulla Terra qualche miliardo di anni fa quando la Luna si formò. E che naturalmente, poiché dopo le missioni lunari conosciamo bene la geologia del nostro satellite, si è capito perfettamente, facendo tutte le analisi e confronti, che è un pezzo di luna, quindi è ancora più prezioso, perché un pezzettino di un centimetro pesa un grammo e mezzo e viene proprio dalla prima luna. Va bene, allora cercheremo di pensare a qualche frase più originale per aggiudicarci questo pezzettino di luna. Ci proveremo anche noi, ed è stata una giornata con la luna storta per gli azzurri di Lippi nella seconda prova della Confederation Cup di ieri. Eh sì, perché con l'Egitto c'è stato un umiliante 1-0. Abbiamo giocato male il primo tempo, abbiamo fatto niente di quello che avevamo preparato. Secondo tempo mi sembra che abbiamo fatto molto bene, ho visto il loro portiere parare 3 o 4 volte giocate molto molto molto difficili. L'unica cosa certa è che è stata un'Italia d'Egitto con delle mummie, De Rossi, Gattuso, Chiellini, Quagliarella che hanno agevolato non poco il lavoro degli avversari, meglio nella ripresa grazie agli innesti di Montolivo e Pepe, ma sempre in affanno con una scarsa lucidità che ha favorito le magie di El Haddari, un portiere matto come non se ne vedono più. Non si può neppure dire che Lippi, conservatore come tutti gli allenatori che hanno vinto un mondiale, si sia affidato solo ai vecchietti di Berlino. In realtà hanno deluso e molto anche i giovani, fuori registro anche nelle cose più semplici. A questo punto tocca proprio a Lippi ritrovare il bandolo. Il problema è che dovrà farlo contro il Brasile, che ha demolito gli Stati Uniti con un imperiale 3-0. Insomma, con le spalle al muro, come sempre, dovremmo fare la partita della vita. Era una nostra specialità, ma forse abbiamo consumato tutti i bonus. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste sono le principali notizie della giornata. Per la prima volta da 14 anni diminuiscono gli occupati in Italia. Si sono persi 200.000 posti nel primo trimestre. Il tasso di disoccupazione è salito al 7,9%. Iran, non c'è stata manipolazione del voto, dice l'Ayatollah Khamenei, che si schiera chiaramente al fianco di Ahmadinejad. Il popolo ha scelto chi voleva, ora c'è bisogno di calma. Il cosiddetto Barrygate si indaga su telefonate ed sms, Bonaiuti replica le indiscrezioni di stampa. Berlusconi non ha mai detto risponderò colpo su colpo. Domenica e lunedì alle urne per i ballottaggi ma anche per il referendum, fra poco i dettagli della consultazione, le ragioni del sì e quelle dell'astensione. Sequestrate nel nord Italia 4,5 tonnellate di mozzarelle gonfiate, erano prodotte con materie prime non consentite o scadute. Nel fine settimana riapre una parte del centro storico dell'Aquila, a Milano il concerto delle donne per raccogliere fondi. Formula 1, resa dei conti, fra la FIA e le scuderie si va verso un mondiale parallelo ma con le auto e i piloti più famosi. Lo sentivamo dunque nei nostri titoli, parliamo di ballottaggi e di referendum. Sì, oltre 13 milioni e mezzo di elettori, iniziamo dai ballottaggi dunque, sono chiamati a scegliere i presidenti di 22 province, i sindaci di 99 comuni, 15 dei quali capoluoghi di provincia. I seggi resteranno aperti dalle 8 alle 22 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. E prosegue così il nostro viaggio nelle principali sfide per i ballottaggi. Oggi andiamo a Bari, dove si confrontano il sindaco uscente Michele Emiliano del centrosinistra, che ha preso il 49% delle preferenze al primo turno. Dall'altra parte Simeone di Cagno a Brescia, che è il 46%. Sentiamo innanzitutto Emiliano. Diciamo che noi abbiamo impiegato 5 anni per risanare la città da antiche ferite, l'inquinamento dall'amianto, l'abbattimento di Punta Perotti, la disastrosa situazione dei quartieri popolari e delle periferie. Abbiamo costruito linee di trasporto metropolitana, abbiamo rinforzato la medicina del territorio, gli ambulatori in quasi tutti i quartieri, abbiamo realizzato l'assistenza domiciliare e rinforzato il sostegno ai minori in difficoltà. Adesso, con una squadra finalmente rimessa in sesto, dobbiamo accettare la sfida della competizione internazionale tra le città. Dobbiamo impiegare bene i fondi strutturali che per quasi 4 miliardi e mezzo andranno investiti nell'area metropolitana. Abbiamo già preparato più di 600 progetti, tra i quali il centro congressi, musei di arte moderna, centri di ricerca, il Novus Campus, che è un grande luogo per la ricerca applicata, tra l'Università di Bari, il Politecnico e il CNR. Insomma, grandi iniziative per realizzare un obiettivo che noi abbiamo definito obiettivo 30.000. 30.000 posti di lavoro nell'area metropolitana nei prossimi 5 anni. E il nostro piccolo New Deal è l'attacco di Bari alla crisi economica. E ora il candidato del centrodestra di Cagno a Brescia. Noi partiamo da una situazione che Bari è una città ferma, che in alcuni casi si è ravvolta su se stessa, quindi dobbiamo ripartire per ridarle un ruolo. Il nostro obiettivo è Bari Capitale, con la nuova centralità del Mediterraneo e il collegamento fra questo mare e l'Europa, non soltanto per traffici di merci ma anche di eccellenze, di intelligenze. Bari può mettersi a servizio e in collegamento, mettere a servizio e in collegamento il Mediterraneo e l'Europa, e il Mediterraneo e i Balcani, che sono l'altra grande area di sviluppo negli anni futuri. Quindi Bari deve assumere una leadership, non deve essere più solo capoluogo della Puglia, ma deve essere capitale di quest'area del sud-est europeo e mediterraneo. Questa in larga sintesi il programma per il futuro della nostra città, naturalmente non lasciando quelle che invece sono le necessità della città, quindi un riequilibrio fra i vari quartieri, soprattutto quei quartieri che vengono definiti periferie in senso di degrado, non solo per la lontananza dal centro della città, quindi con un grande recupero sia sotto l'aspetto sociale dei più deboli e sia sotto l'aspetto dell'urbanistica e del completamento dei servizi. Come dicevamo, però, non si vota solo per i ballottaggi, Simone. Sì, tutti gli elettori sono chiamati alle urne per il referendum sulla legge elettorale. Sentiamo i contenuti della consultazione, dunque. Tre i quesiti sui quali i cittadini sono chiamati a rispondere con un sì o con un no e che sono abrogativi di alcune parti della legge. Affinché il referendum sia considerato valido è necessario che vada a votare il 50% più uno degli aventi diritto. Se dovesse passare il sì, la legge sarà immediatamente applicabile. Tre le schede. Viola riguarda la modalità di elezione della Camera dei Deputati. L'attuale legge prevede che il premio di maggioranza va dalla lista o alla coalizione di liste, mentre il quesito chiede di attribuire il premio alla sola lista che abbia ottenuto il maggiore consenso. Scheda beige riguarda l'attribuzione per l'elezione al Senato. Anche in questo caso si vota per attribuire il premio di maggioranza non più alla coalizione di liste, ma solo alla lista che ha ottenuto il maggiore consenso. Scheda verde, si chiede di abrogare la possibilità per una stessa persona di candidarsi in più circoscrizioni, sia alla Camera sia al Senato. Elisabetta Fiorito, GR24 e Sole 24 Ore, Roma. Il mondo politico si è diviso fra chi dice di votare sì ai quesiti referendari e invece chi chiede di astenersi. Sentiamo allora innanzitutto il comitato promotore nella persona del presidente Giovanni Guzzetta. Se invece si va a votare, si elimina almeno lo sconcio delle candidature multiple, che sono un sistema di nomina dei parlamentari addirittura dopo le elezioni, dopo che si è votato. E poi si ottiene per l'Italia quello che hanno le grandi democrazie, il principio per cui il partito che ha un voto in più governa. A chi ci dice che è antidemocratico che un partito del 35% possa avere la maggioranza dei seggi, rispondiamo: primo, che questo è tutto, è ciò che avviene in tutte le grandi democrazie, per esempio l'Inghilterra, e poi che è molto più antidemocratico che, come è successo nella scorsa legislatura, un partito dell'1% possa far cadere un governo e addirittura determinare lo scioglimento delle Camere. Fortemente contraria, come si sa, la Lega, che chiede l'astensione. Roberto Cota, capogruppo alla Camera del Carroccio. Non andare a votare per questo referendum e, in caso di ballottaggio, di andare a votare solo per il ballottaggio dicendo al presidente di seggio in anticipo di non voler votare per il referendum e quindi di non ritirare la scheda. Il perché è motivato dal fatto che questo referendum è una truffa. In realtà il referendum peggiorerebbe ulteriormente la legge elettorale, perché toglierebbe il pluralismo e attribuirebbe un premio di maggioranza del 55% dei seggi ad un unico listone, anche se dovesse raggiungere pochi voti, basta un voto in più. E lo dicevamo, si voterà lunedì fino alle 15, subito dopo dunque inizieranno gli scrutini. Radio 24 seguirà in diretta l'esito del voto sia nei giornali radio che con due speciali, uno alle 18 e uno alle 21. Parliamo adesso di tutt'altre percentuali, non quelle del referendum o quelle del voto locale, ma quelle dei consumi degli italiani a tavola. Eh sì, perché secondo un'indagine realizzata da Macno per conto di Assobirra, l'associazione di industriali del settore, è avvenuto quest'anno il sorpasso. Nei pasti al ristorante del fine settimana dei giorni di festa preferisce la birra il 42% degli italiani contro il 39% che sceglie il vino. E allora sentiamo Filippo Terzaghi, direttore generale di Assobirra. Non so dire quanto possa pesare la crisi, sicuramente della rincorsa, ma di quello che abbiamo fatto in questi anni. Questo sorpasso per ora è nei ristoranti, cioè quando si mangia fuori nel fine settimana, comunque è un traguardo molto importante per noi. Noi in questi anni abbiamo voluto accreditare la birra, le birre, quindi non più solo come bevanda da abbinare con la pizza, ma anche con una cena più strutturata e quindi anche con i ristoranti, anche i ristoranti di alta classe, molti chef cucinano con la birra, la abbinano, e queste iniziative, oltre a far scoprire agli italiani le caratteristiche della birra, hanno quindi compreso che la birra è perfettamente abbinabile anche a un pasto di un certo livello, e credo che questo sia il risultato del lavoro fatto. A proposito di pasti di un certo livello, sentiamo dove ci porta per il fine settimana il nostro gastronauta. Oggi il mio suggerimento corre a Cagliari, al ristorante Flora, un ristorante molto tradizionale guidato da un personaggio molto conosciuto in città che si chiama Peppe De Piano, un tradizionalista sia nei piatti, nell'arredamento, nei vini. La cucina è ovviamente sarda, ma con ottime materie prime. Si può mangiare ad esempio un fritto di anemoni, cosa assai difficile da trovare, oppure di bianchetti in pastella. Poi si possono mangiare gli spaghetti al cartoccio con cozze, arselle e pomodori, e infine si può finire con dei pesci freschi al forno o alla carne di manzo, oppure anche carne di cavallo alla griglia. Lo ripeto, il ristorante si chiama Flora ed è a Cagliari. 13:46 minuti, 7 secondi, tra un attimo andremo all'Aquila, ma prima Alessandra, una notizia appena arrivata. Si è stata battuta poco fa dalle agenzie i boss del clan dei Casalesi, Francesco Bidognetti, Antonio Iovine, l'avvocato Michele Santonastaso, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta su minacce rivolte allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista del quotidiano Il Mattino, Rosaria Capacchione. Nei loro confronti il PM della DDA di Napoli ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari, ipotizzando il reato di minacce aggravate dal metodo mafioso. Sì, l'indagine si riferisce ad uno scritto letto in aula durante un processo al clan dei Casalesi dell'avvocato Santonastaso, che tra l'altro definiva prezzolati lo scrittore e la giornalista. E ora andiamo all'Aquila, come annunciato, perché domenica riaprirà una parte del centro storico che era stato fortemente danneggiato dal terremoto di aprile. In diretta dal capoluogo abruzzese, Marcello Ianni. Sì, il cuore del capoluogo d'Abruzzo torna a battere nel solstizio d'estate. È prevista per domenica la riapertura del primo tratto del centro storico. La parte che sarà di nuovo accessibile è la zona compresa tra la Villa Comunale e Piazza Duomo. Lungo corso Federico II sono state disposte delle transenne e delle impalcature per la messa in sicurezza di pedoni e veicoli. Un sistema di transenne impedirà ai passanti di accedere a vicoli e traverse del corso principale e della piazza a causa della persistente pericolosità. Si tratta di un primo passo verso la riapertura dei due assi principali del centro storico, ha spiegato il direttore dell'ufficio sismico della Protezione Civile. I cittadini potranno percorrere il tratto del centro storico a gruppi di 50 persone, in modo di avere un afflusso ordinato e senza rischi. Saranno presenti anche il capo dipartimento della Protezione Civile Guido Bertolaso e il sottosegretario della Presidenza Gianni Letta. Per gli sfollati quella di domenica è una giornata della speranza nel rivedere riaperte, la Confcommercio ne stima 35, le prime attività commerciali, ma anche gli uffici che hanno le condizioni di agibilità. qualità. La filiale della Banca d'Italia è tra questi, dopo aver provveduto ad alcuni lavori di sistemazione. Insomma, lo slogan è "L'Aquila torna a volare", lo sperano tutti. Per il momento è tutto. Grazie Marcello Ianni, e come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, domenica ci sarà anche a Milano, allo Stadio San Siro, un grande concerto per raccogliere fondi in favore delle popolazioni terremotate. Sul palco solo donne. Woodstock al femminile non si era mai vista a nessuna latitudine, ma l'evento da record domenica 21 giugno diventa realtà. Mai, tu non mollare mai, rimani come sei. L'idea è di Laura Pausini, l'unica donna che abbia mai calcato il palco dello stadio di San Siro, sino a 2 anni fa inespugnabile feudo maschile, che da tempo sognava di chiamare a raccolta le sue colleghe italiane, come in una grande rimpatriata di compagne di scuola. E quale occasione poteva essere più opportuna di un grande evento che avesse anche uno scopo benefico? E così è nato Amiche per l'Abruzzo, il super concerto per raccogliere fondi destinati ad aiutare le popolazioni colpite dal terremoto, che avrà come scenario proprio lo stadio milanese. All'appello della Pausini hanno cominciato a rispondere Fiorella Mannoia, Giorgia, Gianna Nannini, Elisa, sino a che l'elenco di voci femminili ha superato le 100 adesioni. Un evento da record quindi, che avrà inizio alle 15.30 di domenica 21 giugno e che sarà eccezionalmente trasmesso a partire dalle 19.30 in diretta a segnale unificato da 13 radio nazionali, fruibile si stima da una platea di oltre 30 milioni di ascoltatori. Uno show straordinario, insomma, in un inconsueto solstizio d'estate tutto femminile. Roberta Giordano, GR24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordiamo che anche Radio 24 trasmetterà in diretta il concerto in contemporanea con le altre emittenti, come avete sentito nel servizio, dunque domenica a partire dalle 19.30. Parliamo ancora di musica e di donne, ma cambiamo genere. Sarà la Carmen di Bizet, sentite in sottofondo una versione cantata da Maria Callas, ad aprire questa sera la stagione lirica dell'Arena di Verona. L'opera sarà diretta da Placido Domingo, che torna così alla direzione musicale in Arena per la seconda volta, appunto, con la Carmen. Verrà riproposta l'edizione del 95 di Franco Zeffirelli, ma con nuove scene. In programma, oltre alla Carmen, Aida Turandot, Il Barbiere di Siviglia e Tosca. 50 spettacoli in tutto fino al 30 di agosto. Prima di chiudere il GR Extra Large, riepiloghiamo rapidamente le principali notizie del giorno. Per la prima volta da 14 anni diminuiscono gli occupati in Italia, persi 200.000 posti nel primo trimestre. Iran, non c'è stata manipolazione del voto, dice l'Ayatollah Khamenei, che si schiera al fianco di Ahmadinejad. Bari Gate si indaga su telefonate ed sms, Bonaiuti replica alle indiscrezioni, Berlusconi non ha mai detto che risponderà colpo su colpo. Domenica e lunedì alle urne per i ballottaggi e per il referendum. Sequestrate nel nord Italia 4 tonnellate e mezzo di mozzarelle prodotte con materie prime non consentite o scadute. Nel fine settimana riapre una parte del centro storico dell'Aquila, a Milano il concerto, come avete appena sentito, delle donne per raccogliere i fondi. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Filippo Aureggi. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it per riascoltare la puntata o sentire altri contributi audio. Il nostro sito è www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, Extra Large invece torna lunedì alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.